guardo il cielo, non lo sfioro neppure, e il paradiso sembra un sogno da pazzi. Forse vorrei inventarne uno nuovo, ma vivo a testa in giù. Sono un bastardo se distruggo tutto, sarò un bastardo se ne lascio un po'. Voglio fare un fuoco di tutto perché la noia passi. Faccio nelle strade deserte e sto cercando un paese innocente, ma questa terra è già troppo malata e cado a testa in giù. Sono arrivato per vivere tutto, sono arrivato ma non tornerei, voglio pisciare sulle scarpe a noia.